Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Amo l'atletica perché è poesia. Se la notte sogno, sogno di essere un maratoneta. Buongiorno, così scriveva Eugenio Montale ricordando Dorando Pietri, il garzone di Carpi, protagonista di quella non vittoria, siamo a Londra nel 1908, che è rimasta comunque famosa quanto un oro. Ma se oggi io vi chiedessi che cos'è per voi la corsa e perché correte, voi a freddo o a caldo, scegliete voi, che cosa mi rispondereste? Di quali immagini, parole, pensieri vi servireste per descrivere quella passione che vi spinge, indipendentemente dalla stagione e dal tempo, con il sole e con la pioggia, a infilarvi i calzoncini e le scarpette e, devo dire, a misurarvi proprio con voi stessi? Correre mette a nudo speranze e limiti. Descrivere tutto ciò è una rivelazione. È come gettare un secchio in un pozzo. Quel che porterà il secchio in superficie può piacere o non piacere. Quel che è certo è che ciò che tiri fuori è l'intima scoperta di chi sei veramente. È un sogno che ti porti dietro, anche dopo esserti svegliato. Allora, correre è un sogno, così scrive Marco Lo Conte, che ho invitato qui oggi da noi perché ha appena pubblicato Stregati dalla corsa, edito Gruppo 24 Ore. Marco, che onore. Buongiorno, è onore mio, assolutamente, che bello. Senti Marco, la corsa strega, ammaglia. Eh beh sì, perché è un piacere così particolare, così sottile, che quando inizi ad andare veramente ti fai stregare, ti fai conquistare da questa fatica, poi impari a dominare e poi ti senti più forte e allora vai avanti, hai voglia di andare avanti ed è meraviglioso questo perché ti senti proprio messo in gioco, lì non, insomma è un'attività, esatto, non si può barare, non c'è né pallonetto né finta, è una cosa che devi fare e poi non puoi dire, che senso ha dire, ho fatto 10 km, in realtà erano 5, a chi lo dici? È a te stesso che lo devi dire e questa è la cosa bella della corsa che veramente sta conquistando parecchie persone, lo vedo, lo si vede nei parchi, nelle città, anche in una città come Milano che non è esattamente, non ha l'aria così buona. E tante persone anche di una certa età, diciamo oltre i 40, si mettono in gioco con un paio di scarpette e un paio di calzoncini. Senti, nel tuo libro racconti la storia di 9 stregati dalla corsa. Sì. A ciascuno tu hai fatto la stessa domanda, che vorrei facessi anche ai nostri amici a casa, perché c'è un perché. Che domanda hai fatto? Ne ho fatte tante, ma c'era una domanda a cui tenevo particolarmente. Molti hanno risposto in maniera quasi incuriositi da una domanda che sembrava un po' poco perspicua, poco interessante. Altri invece mi hanno tenuto ore a parlare. La domanda è che cosa si pensa mentre si corre? Perché io in questo libro, Stregati dalla corsa, ho cercato di raccontare non tanto l'aspetto, non solo l'aspetto meramente sportivo, la prestazione, il tempo, la lunghezza, la sfida con gli altri, insomma, ma anche e soprattutto direi la parte interiore, sì, la sfida con se stessi, la passione, sì, cui facevo riferimento prima. E dunque l'aspetto più psicologico, se vogliamo, o culturale della corsa, quell'aspetto che lascia qualcosa di più anche nel tempo, negli anni. Abbiamo iniziato con Montale che ricordava Dorando Pietri, insomma qualcosa che è accaduto 103 anni fa e che ancora adesso commuove a vedere quei filmati d'epoca, così come negli anni successivi, insomma tante avventure sportive al di là della prestazione commuovono e smuovono qualcosa dentro di noi a vederle, a ricordarle. Ieri ho stretto amicizia su Facebook con Stefano May, un grandissimo campione spezzino del mezzo fondo che se la vedeva con i campioni di tutto il mondo e con altri due grandi campioni italiani, Salvatore Antibo e Alberto Cova, facevano un trio delle meraviglie. Ci siamo scritti delle cose molto divertenti, ma insomma è qualcosa che fa parte della storia, della passione sportiva, ma anche di quello che lo sport lascia nella nostra mente, nella nostra forza, nel nostro carattere. Senti Marco, tu così hai aiutato in fondo i nostri ascoltatori a rispondere allo stimolo che oggi vogliamo lanciare, perché tu stai cercando, ne hai scritte 9 di storie, sì. Avresti potuto scriverne molte di più, ma stai in fondo cercando la decima. Della serie non occorre essere famosi manager per confrontarsi come runner, quindi anche tu leggendo il tuo libro lanci una sorta di sfida che possiamo raccontare qua a Radio 24. Si può scrivere a info@stregatedallacorsa.it, esatto. E magari una delle storie, io mi auguro che sia la storia di un runner di essere benessere, rigorosamente di essere benessere, a venire pubblicata, perché insomma, però nel frattempo io chiedo ai miei ascoltatori di intervenire all'800 24 00 24, perché Marco Lo Conte sceglierà tra i vostri interventi grazie alla collaborazione con IBS potremmo proprio far arrivare all'ascoltatore, ascoltatrice, certo, anche se il libro di Marco Lo Conte. Intanto possiamo iniziare proprio prendendo qualche spunto del tuo libro. Io non corro, ma devo dire che mi è venuta voglia di farlo, poi insomma ci faremo aiutare. Qualche attivazione per i nostri ascoltatori che possono già intervenire chiamando il nostro numero verde, stanno già scrivendo al 349-238-6666. Per chi fa una vita molto impegnativa, correre rappresenta qualcosa di più di una valvola di sfogo. È come una bolla, una dimensione in cui l'io si riappropria di se stesso e si riequilibra, sia come corpo, sia come mente. È un momento irrinunciabile che dà la carica a tutta la giornata e rimette a posto tutti i tasselli della vita non ben assestati. Guarisci dai raffreddori o dai piccoli tormenti dell'animo. Marco, così racconta Mastra Pasqua, commercialista romano, da 2 anni commissario straordinario dell'INPS. Sì, lui è un runner particolare, perché lui racconta che c'è uno spartiacque nella sua vita, prima dopo la presidenza dell'INPS. Prima riusciva a correre quelle 4-5 volte a settimana, più la gara della domenica, per cui era un corridore vero, insomma, che percorre tanti chilometri. Poi quando ha preso questo incarico molto impegnativo ha dovuto un po' rallentare, però esce soltanto quelle 2 o 3 volte a settimana, per cui ad orari incredibili, cioè alle 5 del mattino lui è già lì che corre. Sono proprio stregati. E io vorrei chiedere ai miei ascoltatori, ascoltatrici soprattutto, che se la corsa vi ha stregato, come ha fatto a stregarvi e che cosa ha prodotto nella vostra vita questa magia. Mastra Pasqua diceva libera dal raffreddore e dai tormenti i tormenti dell'animo. E in effetti correre, la ricerca ha studiato proprio i runner, la corsa ha degli effetti molto benefici sia sul corpo che sul cervello, e in linea con noi abbiamo il dottor Giacomo Koch. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Neurologo al Policlinico Tor Vergata e ricercatore presso la Fondazione Santa Lucia. Professore, correre fa bene al cervello, la ricerca lo dimostra, succedono tante cose ai runner, vero? Sì, la ricerca lo dimostra ampiamente. Diciamo che in generale l'esercizio fisico produce degli effetti benefici, non solamente al corpo ma anche al cervello, ma questo lo sappiamo da millenni. Quello che si sta scoprendo recentemente nei modelli, ad esempio animali, proprio di laboratorio, in cui vengono fatti correre per tanto tempo delle piccole cavie, sì. Si è visto che in questi topi migliora proprio l'apprendimento e la memoria. Ma questo è dovuto a dei cambiamenti strutturali importanti, ad esempio a livello dell'ippocampo, che è un centro della memoria, e ci sono altre modificazioni importanti come un aumento di produzione di fattori neurotrofici, della vascolarizzazione cerebrale e più in generale dei meccanismi di plasticità neurale. Quindi insomma è un effetto una bella palestra, molto importante, una bellissima palestra. E l'altra cosa molto interessante che sta emergendo è che soprattutto nell'uomo correre effettivamente ha anche un reale induce una reale sensazione di benessere, che è in qualche modo analoga a quella che si ottiene ad esempio fumando la marijuana. L'ho letto anch'io, ma adesso Marco, tu confermi? Confermo che non faccio molti confronti, anzi non faccio non proprio puoi fare confronti. Non faccio confronti con la marijuana perché non la fumo, però correndo devo dire che la sensazione, le sensazioni sono tante e sono benefiche, è vero, ci si sente molto bene sotto molti aspetti, c'è una scarica di endorfine che quando forse verso la fine della corsa, anche dopo aver corso, dà un grande piacere. E, però sottolineerei quello che ha detto il professore poco fa sul tema della memoria, ed è credo che sia un precipitato della capacità di gestire la risorsa fisica, cioè di gestire la fatica, lo sforzo nel corso del tempo. Questo aiuta tantissimo. Il professore lo può descrivere dal punto di vista neurologico. Anche perché lui è un neurologo, medico. Tu invece sei molto stregato dalla corsa. Sì, per io cui le tendi... ho la percezione come tanti altri. Certo. No? È vita vera, vita vissuta. Ma Marco Lo Conte ce la racconta giusta? Sì, ce la racconta giusta. Lui ha descritto proprio molto bene questo aspetto della sensazione di un rilascio di endorfine. Questo è stato verificato in maniera molto dettagliata con un esperimento interessante in cui si è visto proprio nel cervello con dei recettori che legavano con dei marcatori, cercavano di illuminare le zone del cervello in cui c'aveva questo rilascio di endorfine, e si è visto che dopo ad esempio questi corridori venivano fatti correre per insomma 20 km in media, quindi erano delle corse importanti, sì, erano degli atleti veri e propri, dei runner, si è visto che questi endorfine erano rilasciate nelle regioni del cervello che si chiamano, che fanno parte del sistema limbico. Guarda caso questo sistema limbico è quello proprio implicato nel processamento, diciamo, delle sensazioni gradevoli e anche laddove ci sono tutte situazioni di euforia. Quindi insomma sembrerebbe professore che non ci resta che correre. Esatto, assolutamente. Grazie al professore. Lei corre, prof? Io corro, sì, ma massimo mezz'ora, non di più. Va bene, però. Sì, ma non è importante. Non è importante il quanto, l'importante è poi stare bene. Credo, esatto, che l'obiettivo sia un po' quello. E anche un po' nel libro, un po' il messaggio è questo. Insomma, non è importante fare tante maratone, essere degli straordinari campioni. L'importante è comunque un po' è misurarsi con se stessi e vincere come dire, la fatica, vincere la pigrizia, la noia e conquistare una propria dimensione migliore. Certo. Professore, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Intanto abbiamo Pietro che ci chiama da Crema all'800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, Pietro, è in linea. Prima di tutto saluto Marco. Saluta Marco. Che c'è la Bibbia in tasca. Io ho cominciato a correre che ero nei paracadutisti e adesso sono un ragazzo di 63 anni, ma non lo dico con la bocca, lo dico col fisico. E per me correre è una droga. Io corro tutti i giorni, escluso sabato, perché domenica ho la gara. Sì. E per me è una medicina, poi non c'è bisogno di parole, perché io spero di ricevere il libro da Marco. Vediamo se perché Marco sta selezionando, quindi adesso quindi questo è il messaggio di Pietro, grazie Pietro, ma io voglio leggerne uno di Marzio da Firenze, sì, che ci scrive: correre è come andare al cinema, dove il protagonista sei tu, sei anche il regista e lo sceneggiatore. Bellissimo. Poi, grazie bellissimo a tutti voi di essere benessere, perché ma naturalmente la definizione splendida, perché ci si mette sulla scena, ci si mette in gioco quando si corre. Simone ci chiama da Parma, buongiorno. Ciao, ciao Nicoletta, volevo intervenire per dirti un po' quali sono le mie sensazioni. Io sono un po' stregato dalla corsa, anche se corro un po' per diletto, però nel senso che io gioco a pallone, quindi essenzialmente mi alleno per il trasporto. Tanto mi piace. Io abito in una zona limitrofa al centro della città e correndo lascio un po' alle spalle le case e vado verso la campagna, faccio un giro circa di un'oretta, sono 9-10 chilometri. E per me la corsa è un po' come quando le case ti scorrono di fianco, cioè lasciarsi dietro un po' le cose, i pensieri della giornata, lo stress quotidiano e lentamente uscire verso verso un po' più di silenzio, anche un po' introspettiva, ecco, la corsa come la vedo io. C'è proprio una valvola di sfogo che aiuta anche un po' a guardarsi dentro e a misurarsi con se stessi. Simone, grazie per il suo intervento. Abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo telefonate da molti ascoltatori. Io vorrei anche delle ascoltatrici. In linea con noi abbiamo Giulia Jones. Ciao Giulia. Buongiorno a tutti. È l'unica donna citata nel libro di Marco. È l'unica donna. Sono rimasta sorpresa. No, è capitato così. Intanto nella vita non tutto si può scegliere, diciamolo subito. A me è fatto molto piacere conoscere Giulia Jones e registrare la sua capacità, il suo approccio alla corsa, allo sport, perché è un approccio molto importante. Lei insegna a correre. Correre è la cosa più semplice del mondo, no? Però... Però è anche molto facile. Dicevo prima, il quarantenne che si vuole mettere in gioco e allora inizia e vede che bello. Spesso è possibile che poi si corre e ci si fa male perché magari non si è ben preparati. Imparare a correre è importante. Giulia lo sta insegnando, lo insegna da anni, ha convinto anche tante donne che si uniscono proprio per andare a correre. Ma intanto che Giulia resta a nostra disposizione per darci dettagli tecnici, informazioni, potete chiamarci e lei è tutta per noi all'800 24 00 24. Vorrei farvi ascoltare un altro estratto del libro di Marco Lo Conte che suona un po' come una raccomandazione. Poi vediamo se riconosci chi è l'autore di questa raccomandazione. Marco, ti interrogo sul tuo libro. D'accordo. La corsa è un innamoramento. E negli ultimi tempi vedo moltissime persone che si mettono scarpette e calzoncini e vanno a correre nei parchi. Ma bisogna stare attenti al fai da te. Il pericolo è non saper valutare la situazione. A volte il fisico si abitua se sollecitato a un certo tipo di sforzo e sopporta un carico di lavoro. Altre invece si insiste e si finisce per esagerare. Si supera la soglia di sopportazione e quello che era un piacere si trasforma in dolore. E così bisogna smettere. Chi invece si fa guidare dall'esperienza impara, per esempio, a ridurre l'intensità della corsa. La passione a volte trascina eccessivamente e non ti fa tenere in giusta considerazione alcuni segnali che il fisico invia. Da Venuste Nyon Gabo. Venuste Nyon Gabo è un... Promosso, Marco. Venuste è medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996 nei 5.000 metri. Lui è stato un atleta straordinario che dopo aver vinto l'oro, l'unica oro vinto dal Burundi nella sua storia, ha messo a disposizione questa medaglia della pace dei bambini del Burundi, dei runner invece che in Italia vogliono imparare a correre e a coltivare questa passione. E noi continuiamo a parlare di questa passione che strega, ma a coltivarla, a impararla, a proprio assecondarla, anche e soprattutto per continuare a farla restare uno strumento del nostro benessere fisico e mentale. Ci aiuta naturalmente Giulia Jones. Adesso noi, a proposito di corsa, corriamo i mercati, il mete e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. La corsa vi ha stregato? Diteci come ha fatto e che cosa ha significato per voi essere rapiti da questa sorta di magia. Ne stiamo parlando con Marco Lo Conte, autore di Stregati della Corsa, edito da Gruppo 24 Ore, e con Giulia Jones, che è in linea con noi, pronta a darvi consigli tecnici per aiutarvi proprio a vivere questa passione come strumento di benessere. Un benessere, una passione che abbiamo sentito, Giulia, deve essere gestita bene, insomma, non bisogna strafare. Sì, esatto, soprattutto per chi sta iniziando a una certa età. La maggior parte delle persone ritornano a fare sport intorno ai 40 anni, però hanno la testa ancora da ventenni, perciò credono di riuscire a fare le stesse cose che facevano vent'anni prima, quando la realtà è ben diversa. Ci sono dei segnali del corpo che bisogna ascoltare, perché tu, Marco, quando corri, senti che cosa ti dice il tuo corpo? Eh beh sì, c'è tutto un percorso. Stai attento? Beh sì, sì. Per quanto uno possa sentire la musica, per esempio, guardarsi intorno, poi alla fine... la prima percezione riguarda proprio il proprio corpo, per cui da una parte si cerca di superare quel piccolo stress muscolare o articolare che si prova per scaldarsi e andare avanti, però bisogna anche stare attenti che certi segnali non siano troppo, non si tramutino in allarmi, e quello potrebbe ecco, essere pericoloso. Giulia, suonaci qualche campanellino, perché così da differenziare fra disagio e dolore. Ecco. Dolore è una cosa ben precisa, cioè può essere un dolore al ginocchio, un dolore a un tendine, e lì bisogna fermarsi e capire cosa c'è, perché è un segnale del corpo ben preciso. Un disagio diverso, un disagio mentre si corre, mentre si torna a essere in forma, va un po' gestita. Una delle cose più difficili per una che già corre oppure sta iniziando a correre è proprio imparare a gestire le velocità da soli. Oggigiorno abbiamo la tendenza di andare a comprare subito i cardiofrequenzimetri e i GPS per sapere esattamente a quanto stiamo viaggiando, quando invece io chiedo a qualcuno di correre per 5 minuti lentamente e poi 5 a un passo medio, la prima domanda mi fanno è: ma quanto è questo passo medio? Io dico sempre, lo devi sentire, è una cosa che devi sentire dentro, e questo è difficilissimo. Voglio dare un po' la parola ai nostri ascoltatori. Abbiamo Barbara, per l'appunto, è un'ascoltatrice. Sono ancora poche in Italia le donne che si iscrivono a maratone. Avevo visto una statistica di una rivista, Correre, che è specializzata in questo settore, su cui tra l'altro anche Giulia scrive, nel 2010 34.000 italiani hanno completato una maratona. Di questi mi pare il... Io ho letto sul tuo libro. Sì. Uno su otto è donna. Brava. Vedi? Allora, e Barbara magari è una di quelle donne. Barbara? No, non ho mai fatto maratone, a dire la verità. Mezze maratone sì, maratone no. Sì, comunque vabbè, ma si sente materiale. Senta, ma perché me lo dice con quella voce, Barbara? Si sente no, Giulia, non è che si debba sempre fare la maratona, no? Non è necessario fare la maratona, nemmeno la mezza. Barbara, io vorrei che anche il tempo probabilmente di allenarmi per una maratona, per cui... Ecco, Giulia, tu invece aiuti le donne a trovare il tempo per andare a correre. Aiuta Barbara, perché io vorrei che il libro di oggi arrivasse ad una mia ascoltatrice. Scusate, sono veramente molto di parte oggi. Barbara, scusa Giulia, come si fa a trovare bisogna il tempo? Bisogna sapere cosa fa Barbara attualmente. Barbara cosa fa? Barbara fa la psicologa, fa la mamma, fa la moglie. Sì. Ma corri? Corro al mattino molto presto, un'oretta, tre volte a settimana, e poi la domenica. Ma bravissima. E questo non basta? Mi sembra già tantissimo. No, a me basta decisamente, sì, sicuramente per affrontare una maratona non penso che le mie gambe... Per affrontare la maratona bisogna prima di tutto passare a 4 allenamenti alla settimana, questo è proprio il minimo indispensabile, sì. Ma non credo che sia necessario passare tantissimo tempo, infatti... Per chi io alleno verso la maratona, io ad esempio non utilizzo il lungo lento, cioè il famoso andare a fare 30, 32, 35 chilometri 5-6 volte prima della maratona, proprio non lo utilizzo, non vanno oltre due ore e mezzo, un paio di settimane prima della maratona, l'importante è l'intensità e la qualità dell'allenamento. Barbara, ci faccia sapere, La ringrazio. Grazie, buongiorno, grazie. Complimenti. Grazie a lei. Però, bene o male, Marco, poi alla fine la maratona, vedi che anche Barbara dice sì, però non faccio la maratona, mi alleno poco, perché... Insomma, c'è, no? Questo desiderio poi di diventare un maratoneta e di confrontarsi con il muro. Ma anche questa, tu la racconti bene, è un'esperienza che insegna, forma. Andiamo. Questo è uno dei grandi insegnamenti della maratona. Quando conosci un problema e impari a focalizzarne i dettagli, allora non ti fa più paura. È proprio come nella vita. Quando ci si trova in difficoltà, l'esercizio migliore è quello di dare il nome giusto alle cose negative che ci accadono, ai fenomeni che talvolta ci sopraffanno. È necessario analizzarli fino a renderli fisicamente presenti. Nel momento in cui facciamo questo esercizio, scatta un misterioso meccanismo che ci permette di superare queste difficoltà. La paura è sempre legata all'ignoto, all'indefinito. Quando le cose vengono definite per quello che sono, la paura, quasi sempre, svanisce. Così racconta Lorenzo Sassoli De Bianchi, che tu hai presentato come il filosofo, ma che noi abbiamo in linea. Buongiorno, dottor Sassoli De Bianchi. Buongiorno. Lei, tra tutte le varie cose che fa, è anche medico. Sì, neurologo. Neurologo. E quindi noi abbiamo avuto il professor Koch che ci ha spiegato un po' gli effetti a livello del cervello della corsa. Sì. E il fatto che Marco l'abbia così presentato come filosofo? Non so, questa è una scelta sua. No, ma perché insomma con... Ecco, Lorenzo Sassoli De Bianchi alla domanda ma cosa pensa mentre corre? Insomma, mi ha tenuto 2 ore a descrivere i meccanismi. Altri invece non sono stati così affascinati. Ma al di là dell'aspetto meramente medico, quasi meccanico mi verrebbe da dire, invece il ragionamento sull'interazione con noi stessi, abbiamo sentito le parole di Sassoli De Bianchi un attimo fa in audio, insomma è quello di fronteggiare per esempio il muro, questa grande difficoltà, focalizzare i contorni di questo tra virgolette nemico che si presenta di fronte a chi corre e conoscerlo, capirlo e vincere questa sfida. Questa è la cosa più bella, è qualcosa che va in treccia, diciamo così, la filosofia con in qualche modo un approccio neurologico, medico, culturale se vogliamo, e che però è qualcosa che riguarda la nostra persona, il nostro essere, forse anche un po' la nostra voglia di illuminarci attraverso la corsa, di diventare qualcosa di più importante, di migliori, di diversi, di più alti. Dottor Sassoli De Bianchi, dopo tutta questa presentazione di Marco io rimango senza parole, ma io ho letto che lei ha iniziato a correre in quella che lei definisce crisi di mezza età, che è un po', insomma, un po' lo fa, mi scusi, ma un po' è una cosa proprio da voi uomini, dopo i 40 anni gli uomini iniziano a correre. Ci sono anch'io, Perché? Anch'io. Perché così poi ci facciamo aiutare anche, voglio sentire il parere di Giulia Jones e dei miei ascoltatori. Guardi, la corsa è un percorso verso se stessi, sostanzialmente, quindi è una disciplina abbastanza facile, naturale, che coinvolge oltre al nostro corpo naturalmente anche la nostra mente, e quindi è una piccola ascesi che ci aiuta da un lato a distaccarci dal mondo materiale, perché quando corriamo poi i pensieri fluiscono liberamente e riusciamo in qualche maniera a distaccarci dalle ansie quotidiane. Dall'altro lato riusciamo ad appropriarci di più di noi stessi, della nostra fisicità, di quello che è proprio la nostra umanità. Io dico sempre si torna al punto zero, no? In cui il corpo e la mente si uniscono. Dottor Sassoli, mi ha stregato un po' anche lei e io mi stavo dimenticando che ci sono le informazioni sul traffico, ma ritorniamo subito dopo, tra poco. Essere e benessere. Giulia, il dottor Sassoli De Bianchi ci così raccontava un po', ci dava la sua lettura della corsa. Molti uomini iniziano a correre in questa crisi di mezza età. Sì. Che raccomandazione? Sì. Le donne in modo diverso, vero, si avvicinano alla corsa? Ma le donne in modo diverso, e vedo che in genere lo fanno quando i bambini iniziano la scuola, cioè quando cominciano ad avere, non so, un quarto d'ora di tempo libero al giorno, pensano che possono riempirlo con un po' di movimento, oppure vogliono tornare un po' come erano prima delle gravidanze. Ecco, ma quali messaggi, quali raccomandazioni fai a questi due profili diversi, no? L'uomo che inizia, che si appassiona dopo i 40 e invece la donna che vuole ritornare. Ma la prima cosa che guardo io è cosa facevano prima, perché molti oggigiorno non facevano sport in precedenza. C'è una bella fetta di uomini e donna che hanno fatto sport magari in gioventù e hanno continuato fino a 20-22 anni e poi hanno smesso. E purtroppo c'è un'altra bella fetta che non ha mai fatto nulla. Perciò si vede subito, cioè si vede subito chi ha fatto qualcosa in precedenza, sì. Un po' perché magari si ricordano oppure hanno una muscolatura molto diversa. Perciò l'approccio è sempre con molto cautela, senza fretta. Senza fretta. La cosa che mi ha sorpreso di Barbara è questa, cioè corre 3 volte la settimana per un'ora. E sembrava dispiaciuta, sì. Invece non bisogna pensare che tu sei arrivata perché hai fatto la maratona. Oggigiorno in Italia ci sono delle bellissime serie di gare di 10 chilometri che sono fantastiche. Infatti anche qualche ascoltatore mi dice: perché parlare di maratona? L'uscita al parco mi dà altrettanta soddisfazione. Fabrizio da Cuneo, buongiorno. Buongiorno, grazie. Volevo raccontare la mia esperienza brevemente. Praticamente io ho sempre fatto sport, uno sport diciamo da combattimento, però ho sempre tenuto attiva la corsa almeno una volta a settimana. Adesso ho 40 anni e volevo raccontare, ho attraversato anche dei momenti non piacevoli della mia vita e mantenendo la corsa attiva una volta a settimana anche contro volontà, perché sì. A volte quando attraversiamo dei brutti periodi va via la voglia di correre, ma insistendo sulla mia psiche e continuando a correre ho aiutato il mio corpo a risolvere, cioè la mia mente, il mio corpo a risolvere questo problema, nel senso che i problemi con la corsa si dissolvevano, sembrava che si dissolvessero. Mi sembra che sia anche un po' quello che racconta il dottor Sassoli De Bianchi nel libro di Marco, no? Fanno venire, nascono anche nuove idee oltre a dissolversi i problemi. Ma guardi, la corsa... No, lo chiedevo... Certo, dottore. Sì, la corsa... Come dicevo prima, ci aiuta ad affrontare momenti difficili, ma anche ci permette di immaginare cose che normalmente non trovano lo spazio per uscire, perché noi sappiamo bene quale sia l'effetto delle endorfine, che è un po' euforizzante, che quindi agiscono soprattutto nella prima fase della corsa, perché poi quando arriva la fatica si entra in una fase diversa, che è quella che io definisco del vuoto mentale, cioè proprio... del silenzio, che è poi un raggiungimento di uno stato altrettanto interessante. Quindi la corsa da un lato aiuta ad affrontare difficoltà, da quell'altra produce idee che poi però devono essere confrontate con la realtà, perché a volte quello che si pensa correndo Antonio, è un po' sopra le righe. Antonio mi scrive: è nella fatica che brillano le idee, soprattutto correndo. Abbiamo tempo per andare da Brunella, che ci chiama da Bologna. Buongiorno Brunella. Buongiorno, come va? Bene, allora la mia esperienza è questa. Io praticamente ho fatto dall'età proprio giovanile, verso i 12 anni, atletica leggera per diversi anni. Poi ho continuato a correre, naturalmente sono cresciuta, mi sono sposata, ho fatto una figlia, vado a correre 3 volte alla settimana, circa un'oretta, e la domenica pomeriggio. Sì. Sponsorizzo la corsa perché appunto mi aiuta a rimanere sempre in forma, fisicamente e mentalmente mi dà quella marcia in più, ma soprattutto volevo evidenziare il fatto che oggi si parla di fitness solo pagamento, corsi in palestra, tute mirabolanti, ci si mette in mostra, si fanno tantissime attività che alla fine ci costano. Correre è veramente eccezionale anche dal punto di vista economico. Ti basta un paio di scarpette, naturalmente da serie, corso ben fatte, un po' di tempo e puoi andare a correre in tranquillità senza doverti confrontare con particolari MIS o quant'altro. Quindi c'è anche questo lato, un po' alla portata di tutti. Marco, noi siamo in chiusura. Sì. Posso dire una cosa a questo proposito? Sì. La corsa è il più economico degli sport. costa solo fatica, però rende molto. Costa solo fatica, ma rende molto. Sì, è un investimento straordinario. Io, esatto. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, io non mi occupo esattamente di corsa, è qui al Sole 24 Ore. Prima Radio 24 mi occupavo di investimenti, e me ne occupo ora su Plus 24, di finanza personale, di fondi pensione, insomma ogni tanto capito su queste frequenze per parlare di questi temi, ma l'investimento che si fa nella corsa ha una rendita enorme, straordinaria, tanto che addirittura tale la conquista è la libertà, no? Questa percezione di libertà, e la libertà anche di dire beh, per un po' non corro. No, perché è così, è un po' come uscire dallo schema di dover correre. No, non è necessario dover correre. La cosa più bella puoi dire, per esempio, per un periodo mi prendo un anno sabbatico, oppure per un periodo una maratona non li faccio, faccio soltanto le mezze o soltanto 10 chilometri. Questo anche questa è una conquista. Poi magari si riprende. Senti, Giulia, è vero? Possiamo farlo? 30 secondi. Possiamo avere questa libertà di correre, non correre le mezze, eccetera. Tu lo consigli? Io lo consiglio, negli anni in cui ero veramente indaffarato con i figli non andavo nemmeno alle gare, correvo per conto mio, molti dicevano non sta correndo più, però io avevo il piacere di sapere che correvo io con me stessa 3-4 volte alla settimana, qualche volta invece di correre io stacco e vado in piscina, vado certo, si può anche un po' cambiare. Dottor Sassoli, certo. De Bianchi, il filosofo nel libro di Marco Lo Conte, Stregati dalla Corsa. La prossima maratona? New York, si sta preparando? È la settima, ma lei ha un buon tempo oltre a essere... No, io guardi, io devo dire, e vorrei concludere su questo, sì? Che io non ho nessun talento sportivo, mi piace molto lo sport, per cui la corsa è alla portata di tutti, non c'è bisogno di aver fatto sport nella vita. Ok, allora mi avete convinto, da domani inizio a correre, andrò sul sito di Giulia Jones, vincitore non si dice, a chi dai il libro? Beh, Marzio, con questa definizione della corsa come un cinema di cui sei spettatore, regista, protagonista, interprete, insomma credo Marzio se lo ci ha stregati dalla corsa. Marco Lo Conte, grazie a Giulia Jones, al dottor Sassoli De Bianchi, a voi grazie. Che ci avete seguito, io vi aspetto domani dopo il GR delle 11, voilà. Essere e benessere.